Tempo di Sport con Carlo Genta. Buongiorno, buon sabato a tutti. Giorgio De Luca in redazione, Fabio Cantadori in regia. Oggi non vi invito a chiamare, vi invito invece a starci ad ascoltare. Con me Andrea Zorzi. Ciao Andrea. Ben ritrovati a tutti e ben ritrovato Carlo. Com'è andata la settimana? Bene, qualche viaggio. E poi ne parliamo anche di questi viaggi, di queste interviste in chiave olimpica che stai facendo. Ma finalmente in questo weekend, tra stasera e domani, finisce tutto. Calcio finale di Champions League stasera. Bayern-Chelsea, domani sera ultimi fuochi con la finale di Coppa Italia. È il weekend più importante dell'anno. Sì, è il weekend del gran finale. Così poi dopo siamo liberi di lasciare spazio al calcio. Al calciomercato. Così poi non ci sono più disturbi, non partite giocate. Non ci sono più rotture di scatole. Però aspetta, che forse adesso tra europei di calcio e poi olimpiadi magari un paio di disturbi. Come facciamo? E facciamo come fanno adesso, che i siti di calciomercato sono super visitati, che il calciomercato è proprio la colonna portante delle news. Dobbiamo fare finta che non sia il core business del giornalismo sportivo. Otto mesi di calciomercato e un paio di mesi, ma una roba veloce. Bisogna continuare a guardarlo di straforo e far finta che ti interessi dell'altro, giusto? È così. È così, è così. No, senti Andrea, io volevo partire con te in questa chiacchierata sui grandi temi della settimana. È stata una settimana piuttosto divertente, devo dire. Parto dalla fine e da questa proposta indecente che Lippi naturalmente ha accettato ed ha fatto benissimo. Gli ascoltatori mi dicono: tu sei invidioso, lo dichiaro pubblicamente, se volete lo metto per iscritto, sono invidioso come una bestia. 30 milioni di euro per andare ad allenare in Cina, e ha detto: vado a rappresentare l'Italia nel continente più importante che c'è in questo momento, con Zaccheroni che allena la nazionale giapponese, sono le nostre teste di ponte e andiamo alla conquista dell'estremo oriente. Però facciamo dei distinguo allora. Sì. Zaccheroni in Giappone, sai che si parla di Giappone, io divento specie di samurai, sta facendo una bellissima esperienza, anche lui ne parla molto bene, ne parla sia dal punto di vista professionale ma anche dal punto di vista umano. Per quanto riguarda... Poi attenzione, allena una nazionale che ormai è importante, anche calcisticamente. Io ho incontrato qualche anno fa in Qatar Milutinovic, sì, che è stato l'allenatore della Cina. In realtà lui ha allenato 7-8 squadre, allenato tutti. E ha partecipato, forse ha allenato anche te, e ha partecipato a 10-11 mondiali, e mi raccontava della sua grandissima esperienza fatta in Cina, ne parlava in toni entusiastici. Quindi confermo che la scelta di Lippi, anche trascurando per un attimo l'aspetto prettamente economico, è una grande esperienza. Poi abbiamo visto qualche giorno fa la presentazione, ricordava un po' queste presentazioni da congressi del partito cinese con uno sfondo rosso. Una grafica un po' vintage. Sì, ecco, bravo, un po' vintage. No, però non è l'unico CT campione del mondo ad emigrare, ce n'è un altro che conosci molto bene. Sì. E qui abbiamo Barbolini che in questi giorni ha firmato per la Turchia. In realtà, per quanto lo riguarda, da qualche tempo chiedeva di avere il cosiddetto doppio ruolo. La Federazione di Pallavolo ha scelto da qualche anno di non permettere al commissario tecnico di allenare i club, che per alcuni aspetti è accettabile, però ci sono alcuni allenatori, e Barbolini è tra questi, che veramente ama il suo lavoro. E per lui stare fermo 5 o 6 mesi in attesa dell'estate, della stagione della nazionale, è una grande sofferenza. Sì. Aggiungiamo anche il fatto che adesso la geografia economica della pallavolo maschile e femminile si è spostata decisamente verso est. Quali sono i paesi ricchi? I paesi ricchi sono Russia, Turchia, Azerbaigian, sono quelli che ci mettono veramente molti soldi. Poi ci sono delle piccole colonie quasi estive, che sono i soliti paesi del Golfo, e quindi parlo del Qatar, di Dubai, i quali organizzano dei tornei, spesso è l'Emir Cup, la Coppa dell'Emiro, chiamati così, che sono molto molto brevi e li posizionano nel calendario apposta alla fine dei playoff nei paesi più importanti, in modo che un campione potrebbe uscire nei quarti di finale, arrivare in semifinale, poi si prende un mese e mezzo di tempo e va a fare questa specie di vacanza lavoro pagata, diciamo, piuttosto bene, adesso non esageratamente, e però questo, come dire, è proprio questo atteggiamento tipico dei paesi del Golfo, che talvolta hanno questa abitudine a letteralmente comprarsi alcuni eventi. Non è uno sport così radicato, però Russia sicuramente, a maschile e femminile, la Turchia, anche in Cina Carolina Costagrande, italianissima, arrivata in nazionale da pochi anni, ha giocato quest'anno e vinto il campionato in Cina. Quindi nuove frontiere che vanno esplorate per i mestieranti dello sport. Non io ricorderò sempre qualche anno fa Gardner, un giocatore statunitense, il quale ha avuto la fortuna di studiare insieme con Page, che è il fondatore di Google. E si racconta anche che una volta questo Page abbia detto a Gardner: senti, ma hai voglia di aprire con me una piccola azienda, che poi era la Google? Lui disse: no, guarda, preferisco giocare a pallanuoto. Non ho sbagliato, perché lui era bravissimo a giocare anche a pallanuoto. Però era un buon giocatore di pallavolo. A quel punto gli hanno chiesto: senti, devi decidere però. Sai perché ha deciso per la pallavolo? Perché? Ha aperto l'Atlante e ha visto che c'erano più campionati di pallavolo a livello mondiale che davano dei discreti contratti economici di quanti non ce ne fossero con la pallanuoto. E ha scelto, tipicamente da americano, molto pragmatico, quello che era la professione che gli permetteva di avere maggiori opportunità di guadagno. Sì, poi ha picchiato la testa contro il muro dopo che ha capito a cosa aveva rinunciato. La sua risposta era questa: in realtà non posso neanche pentirmene molto, perché ho fatto un'altra vita. Se avessi saputo, sì, però. Cioè, non ha fatto comunque ha fatto una scelta da privilegiato. Devo dire che. Però. Sì, poi sono questi strani, sai, questi incroci della vita, certo. Queste sliding door, che però sono così casuali, qui fai anche un po' di fatica a avere dei rimorsi per qualcosa che era così imprevedibile. Chi poteva immaginare in quel momento. Senti, ma col doppio ruolo, che in altri sport, ad esempio il basket, esiste, tu come sei, favorevole o contrario sul doppio ruolo del commissario tecnico? Io tendo ad essere favorevole. Anch'io. Velasco non vuole fare il doppio ruolo e dice di amare moltissimo la nazionale, un po' perché lui negli ultimi anni, come dire, vuole anche dei tempi per sé, quindi gli piace seguire la pallavolo, ritiene più adatto al suo approccio avere periodi, l'estate, 2 o 3 mesi totalmente impegnati, quindi in giro per il mondo a fare tornei, e poi 5 o 6 mesi di tranquillità. Ce ne sono altri che proprio hanno bisogno di stare in palestra. Barbolino è uno di questi. Bernardinho, l'allenatore della nazionale maschile brasiliana, è ormai da molti anni di un club femminile. Lo stesso Zé Roberto è impegnato per entrambi le situazioni. Quindi ce ne sono molti che proprio amano stare in palestra, e se non possono farlo, non tanto per l'allenamento, per avere quella voglia di partita, stanno male. Dunque tu, caro Andrea Zorzi, mi stavi dicendo che ci sono degli allenatori che vogliono lo stress da panchina, che hanno la necessità di questo ormai celeberrimo stress da panchina. Ti dicevo che ho sentito il professore Silvano Prandi, che invece mi ha detto che allena, tu sai, dal 76, no? Sì, se non ricordo male. È il più longevo. Cioè, ad alto livello dal 76, ma ha precisato, ho iniziato prima. In tutti questi anni, lui ha avuto un solo esonero. Quindi. Che è poco. È poco. Lui ci è rimasto malissimo, ma è poco. E comunque, tra l'altro, ha detto: il mio detto quando ho iniziato ad allenare era: se ti fermi, non so scritto, se ti fermi a tirare i sassi a tutti i cani che abbaiano, non arriverai mai alla meta. Questo era il suo motto quando ha iniziato ad allenare. Non lo sapevi, eh? Non lo sapevo. Comunque, lui mi ha detto: ma che stress da panchina? Ma lo stress ce l'ha chi da panchina non ce l'ha. Sì, è sicuramente così. È vero anche che poi ci sono alcune situazioni in cui è faticoso stare carico, entusiasta, rinnovarsi. Però in questo io torno alla distinzione fatta qualche minuto fa. Ci sono alcuni allenatori che amano per davvero stare sul campo di gioco, inventarsi delle soluzioni, allenare la squadra per la partita, amano vincere naturalmente, ma in ogni caso non vivono tendenzialmente con la preoccupazione di perdere. Questa è la differenza. Anche negli atleti c'è chi ama moltissimo vincere e c'è chi odia così tanto perdere che fa di tutto per vincere. Non ci sta dentro. L'approccio è un po' diverso. Sì. Volevo coinvolgerti su un altro tema che mi sta a cuore, visto che tu li hai giocati qualche volta i playoff. Ecco, io ho deciso l'anno prossimo di fare una battaglia contro la decisione della Lega Basket di portare le serie a 7 gare, che secondo me è una follia assoluta, che quest'anno c'è ancora per la finale scudetto ed è troppo. L'anno prossimo, visto che è un'idea folle, hanno deciso di annacquare i playoff di basket fin dai quarti di finale. Non ho ancora trovato uno che sia d'accordo con questa idea, se non chi l'ha decisa, cioè quelli della Lega Basket. Come vedi le serie così lunghe? 7 sono tante. Sono veramente troppe. Tantissime. In realtà mi viene in mente solo che nello snooker fanno le partite, però al massimo dura mezz'ora, sport, non passatempi. No, sette partite sono tantissime. È vero che ipoteticamente alla settima partita in parità, ma quando mai? A me, ripeto, cosa detto, mi piacciono molto i playoff. Sono il primo a dire che non sono il sistema più giusto per definire il vincitore, perché con i playoff vince la squadra che è più in forma in quel periodo. Io sono pronto a sacrificare un po' di sportività per il piacere del playoff che si gioca in pochi mesi. Secondo me 3 su 5 è la media giusta. Sì, 3 su 5 è la media giusta, la media massima anche secondo anche, me. Sì. Anche il 2 su 3 va bene, però lì sai... Il 2 su 3 è più alea, però d'altra parte la pallavolo, tu mi insegni, rinuncerà al V-Day, che però è stato un successo clamoroso, onestamente. Sì, cioè, però... è il massimo dell'ingiustizia sportiva, se vogliamo, però insomma si tratta anche di spettacolarizzare. L'altra faccia della medaglia, ho incontrato il giorno dopo il V-Day, che è stato straordinario, il presidente di Lega, il direttore generale della Lega, sì, Massimo Righi, mi ha detto, sì, grazie dei complimenti. Ma se per caso Macerata perde 3-0, era tutto molto meno bello. Ho usato un termine sì, meno eufemistico. Però sei veramente appeso per il divertimento, per l'entusiasmo, per l'equilibrio a un'unica partita. Quindi, se non ci sono soluzioni per il calendario compresso, va bene il V-Day. Secondo me una bella finale 3 su 5 di un playoff che in qualche modo racconta una stagione di qualche mese, mi sembra essere... È un finale sportivamente più equo. Chissà cosa ne pensa il nostro amico Nicola Ruggero da Sky. Intanto stasera si gioca la finale di Champions League e altro che playoff. Ma d'altra parte playoff col calcio si azzeccano poco secondo me. Nicola, ciao, grazie. Ciao, buongiorno agli ascoltatori. Cosa ne pensi del discorso che stavamo facendo? Ma penso che specialmente la conclusione è quella corretta, cioè mentre il basket e la pallavolo sono sport che hanno una sua logica anche aritmetica, se vogliamo, è molto difficile che ci sia una grande sorpresa in queste due discipline. Nel calcio invece è molto più facile, lo dimostra il fatto che la finale è tra Bayern e Chelsea, che certamente non erano tra le due squadre, o meglio il Bayern sì, il Chelsea molto meno, tra le due squadre più accreditate per arrivare un finale, quindi il calcio regala margini di alea che gli altri sport non hanno, ecco perché risolvere tutto i playoff a mio parere sarebbe un'ingiustizia. Quindi penso che il calcio rimarrà così com'è, il girone unico. Ti posso disturbare un attimo perché vedo che la qualità oggi è altissima, Alea l'ha usato prima Carlo, ha a che fare con i dadi, con la casualità, giusto? Sì, non sapevo che fosse già stato sdoganato il termine. Senti Nicola, e questa sera se dovesse vincere il Chelsea, cosa che secondo me difficilmente accadrà, non so come la pensi tu, con Di Matteo vincere e stravincere, perché già un trofeo l'ha portato a casa, e dirsi comunque addio, a me sembra una pazzia. Beh, ne ha fatte tante, Abramovic. Che una più una meno, dici, uno sposta. Questo sarebbe un'altra perla che si fa aggiungere al suo rosario. Era follia mandare via Ancelotti, un allenatore che gli aveva vinto il primo colpo campionato dei FA Cup. Era una iperfollia prendere Villas-Boas, che gli è costato credo più o meno quanto la separazione dalla moglie, sarà una follia perché sicuramente sarà così. Non c'era Di Matteo che ha trasformato una stagione del Chelsea che si avviava al disastro più totale in una che comunque vada già adesso è brillante, perché domani prima sull'FA Cup e comunque giocare la finale di Champions dopo aver eliminato il Barcellona è un qualcosa su cui non avrebbe scommesso due mesi fa nemmeno il più ottimista di Chelsea. Per cui Abramovic evidentemente continua a godere di molti rubli nel suo conto in banca e questi rubli li spende come vuole, ma soprattutto. Beh, vedi come sono questi ricconi, Andrea. Nicola, passiamo alle cose, dai, quelle che dimmi che ti piacciono molto. Parliamo un po' di Olimpiadi e di atletica. Sai che ho incontrato settimana scorsa Silvia Salis. Ah, beh, la nostra ottima mattellista italiana che a mio parere ha tutte le possibilità di centrare la finale a Londra. Poi per gli spettatori, diciamo così, maschietti, posso dire che è la pin-up in questo momento dell'atletica azzurra, perché è una bellissima ragazza. Non lo scegli mica a caso, Andrea Zorzi. Non l'ho scelta io, però io ho accettato di intervistarla. 26 anni, veramente molto carina. Poi tra l'altro, indicazione per tutti, chi avesse l'idea che il lancio del martello fosse pieno di donnone, cambi idea, nel senso che certamente sono muscolose, sono donne che hanno anno, però questa velocità di rotazione di fatto è anche un'opportunità per essere forti ma snelle, e Silvia è un'atleta veramente in questo senso bellissima. Beh, però nell'iconografia classica, Nicola, la martellista come la lanciatrice di peso o la discobola, insomma sono tutti donnoni nell'iconografia classica, poi se è cambiato qualcosa non lo so. Però è sbagliata, perché ha perfettamente ragione Andrea, soprattutto il martello necessita di una velocità di rotazione in pedana e quindi un dinamismo e di una coordinazione che non si sposano alla classica virago che noi abbiamo per esempio nel getto del peso. E non a caso che proprio nella pedana del martello ci sono tantissime belle ragazze, c'è Natalia Salis, ma c'è anche la russa Lisenko, e nel recentissimo passato, perché si è ritirata quest'anno dopo aver fatto degli ottimi risultati, l'altra ragazza azzurra, la Clarissa Claretti, era anche lei una bella ragazza, quindi bella ragazza non soltanto dal punto di vista così dell'aspetto, ma anche fisicamente. Certo, c'è una muscolazione che ovviamente deve essere osservata, un potenziamento tecnico, però se non prevale caratteristica di dinamismo, quindi di atleticità, non si va da nessuna parte. Infatti c'è una proporzione, il peso è quello che prevede proprio forza pura, quindi donnone o uomini più grandi, il disco è un compromesso e poi il martello invece è quello che pur in una costituzione solida privilegia la velocità. Io prima di salutare Nicola Roggeri invece voglio chiedergli un'altra cosa. Nick, quando da appassionato di, oltre che lasciamo stare la competenza, ma da appassionato di calcio inglese, quando hai sentito Roy Hodgson dire che ha convocato Chamberlain perché l'ha visto bene contro Pirlo e Ambrosini all'Emirates nell'ultima Champions League, che cosa hai pensato? Beh, intanto che se l'ha visto contro Pirlo ha avuto le travescole, perché e Ambrosini era in tribuna ecco, quindi ha visto che Pirlo era la Juventus e Ambrosini appunto manco c'era, ma sono state convocazioni che mi hanno lasciato più che sorpreso, ma non tanto per la mancata convocazione di Rio Ferdinand, che è un giocatore fatalmente in discesa, direi soprattutto fisica, anche se rimane un giocatore di strepitosa personalità, che comunque quest'anno con il Manchester ha disputato un buon campionato, quanto al fatto che siano stati ignorati dei giocatori che a mio parere potevano dare una grossa mano all'Inghilterra, penso a Michael Richards, che è uno strepitoso difensore del Manchester City, penso a Crouch, che è allo Stoke City, che con i suoi 202 centimetri una varietà di soluzioni anche importanti per l'attacco, dove mi sembra che tutto il peso sia su Rooney. Attenzione, però Rooney dovrà saltare le prime due giornate, quindi è un Inghilterra che farà veramente tanta fatica a segnare dei gol, quindi ma non un po' sorpreso appunto le convocazioni d'Oxon, però insomma lui a livello di mondiale è quasi una partita, ha fatto delle grandi cose, chissà che come CT non si sentisca, soprattutto non pentisca me dopo quello che ha detto adesso, e magari tra un mese e mezzo potrà farmi reingoiare tutte le mie parole. Ma insomma, glielo auguriamo, io ci credo poco, ma credo tu anche. Grazie Nick. Grazie, un saluto ancora Andrea, che si conferma un grande tecnico di sport. Suo. Grazie e Nicola, poi, ci vediamo a Londra, ci vediamo. Beati voi, io sto qua a raccontare le Olimpiadi. Vi telefono a tutti e due, Andrea Zorzi e Nicola Roggero nel periodo olimpico. Ci fermiamo, però poi raccontiamo queste interviste che stai facendo. Molto volentieri. Per cui, come molto al volentieri. Solito, ti invidio, ma ormai, insomma, ormai l'ho già detto per tutti i viaggi che fai, per tutte queste cose. Io invece sempre qua sto. A proposito di queste interviste che stai facendo, la Salis, va bene, poi cos'altro hai fatto? Vezzali, Valentina Vezzali e Simona Gioli, sono tre in onda su Sky. Ma cosa vai a chiedere a queste atlete? So che hai in calendario anche la Pennetta, insomma. Pennetta Cagnotto e poi Jessica Rossi. Ditemi voi se poi non devo essere invidioso. Dunque, è un'intervista che prova un po' a raccontare la parte femminile anche. E c'è un aspetto che mi trova particolarmente curioso, e tu sai qual è. Sì, perché a un certo punto fai una domanda. C'è una domanda con Simona Gioli, è stato fantastico. Per entrare così da uomo, quindi insomma incapace di capire bene quali siano le sensibilità delle donne, ho detto: senti, aiutami un po' a entrare in questo universo fantastico delle donne che è la borsa. E Simona Gioia ha detto: sì, lo shopping, quindi no, non in quel senso, intendevo proprio la borsa sportiva, la borsa, cosa c'è nella borsa, cosa non può mancare nella borsa. Mi ha parlato tu devi sapere che io sono grata alla pallavolo perché mi ha permesso di comprare più borse. Ma come? Quante se ne hai? E mi ha detto: guarda Andrea, sto basso, ma ne avrò almeno 100, ma no, ma sono di più in realtà. Ma dove le tieni? In un armadio. in un armadio. Infatti il marito un po' si lamenta e dice: ma almeno una volta ogni tanto mi fai a prendere una camicia. No, molto molto interessante. Molto interessante anche l'intervista con Valentina Vezzali, che si è dimostrata. Cosa veramente... ha detto sulla borsa? Lei ha detto che è ordinatissima. Mi dà quest'idea. Che in realtà no, è in camera abbastanza disordinata, però nella borsa abbiamo delle sue cose. Però tieni conto che in questo senso un po' tutti gli atleti sono molto attenti. André Agassi, in questo meraviglioso, ripetiamo, in questo meraviglioso libro che è Open, dice: la borsa è come il cuore, devi sapere cosa c'è dentro. La tua com'era? C'era le scarpe, qualche volta c'era il bagnoschiuma e lo shampoo. Se no te lo facevi prestare da chi? Masciarelli, di solito. Il ufficiale era Masciarelli. Io vi racconto questa velocissimamente. Quando ero un ragazzino, quindi giovanotto, 17 anni, ci andò a fare il primo lungo collegiale di circa un mese, forse un mese e mezzo, all'Effe, che è in provincia di Bergamo. A quel punto non c'era la lavanderia, né io immaginavo di dover stare così a lungo in collegiale, quindi avevo una decina di magliette, due al giorno. Dopo cinque giorni le magliette erano finite e accumulate nell'angolo della stanza. A quel punto fai: oggi con cosa mi alleno? Ho preso quella che era sotto, che nel frattempo si era asciugata, me la son messa e sembrava che tutto andasse a... Sì. Poi, non so se voi lo sapete, ma quando ricomincia a sudare con una maglia che si è asciugata... Si è asciugata senza essere stata lavata, immagino che nessuno ti passava vicino, insomma. Non si poteva fare. Posso farti sentire una cosa? Ma volentieri. Ti faccio sentire questa. Allora, innanzitutto ho fatto una marmellata, quindi mele, delle mele golden, dello zucchero e dei fiori di lilium. L'ho fatta cuocere fino a che non prende la sua determinata consistenza. Dopodiché ho preparato una pasta frolla con burro, farina, zucchero e uova. Ho steso un velo sottile su una teglia, l'ho riempita con questa marmellata e l'ho cotta in forno per circa 20-25 minuti. Si fa raffreddare, secondo me è un'ottima torta da colazione. Non siamo impazziti, anche sapete che Andrea Zorzi è un ottimo cuoco, però la torta perfetta l'hanno perfetta, poi vediamo, l'hanno confezionata in Spagna, Rajo Vallecano e Granada. Ah, ma di torta di altro tipo. Filippo Maria Ricci, corrispondente della Gazzetta dello Sport. Allora, hai sentito anche tu la ricetta? Vabbè, insomma, se ne sono viste di più gravi, dai. Ma come, quali hai visto di più gravi? Fammi capire. Cioè, la cosa... Norvegia, la cosa... Danimarca. Vabbè, ma no. A parte il fatto che io penso che ci sia anche un sottofondo sportivo in questo, no? Perché hai acquisito una posizione di vantaggio, insomma, è inutile fare le vergini in convento. Sono cose che succedono e non siamo qui per scandalizzarci. Però che il centravanti lo vada a dichiarare, che questo Miciu lo vada a dichiarare anche in TV, ecco, questo è bizzarro. No, quello senz'altro. Teoricamente era è una situazione un po', come si può dire, complicata dagli altri risultati, nel senso che è difficile esimersi. Io la metterei così. Sì, difficile esimersi. Come si dice torta con questo significato in Spagna? Biscotto, cioè, noi usiamo questi termini qua, non... il biscotto, la torta, no, qua non c'è un termine altrettanto... Non c'è bisogno di definire con una... Non gli era mai successo. No, qua la parola che usano di più è il maletín, che è la valigetta piena di soldi che si dà però diciamo come premio a vincere. Questo è il grande, diciamo... diciamo imputato di solito in queste situazioni nel calcio spagnolo, nel senso che si dà il premio a vincere alla squadra che voi anche lì è condannato, però almeno a vincere, esatto, a vincere. E quindi così. E in questo caso è un po', ti dico, ci sono dei fattori comunque esterni, nel senso che è un risultato che sì, loro che conviene, e non lo so, io la vedo. Poi alla fine il Villarreal viene condannato al gol di Falcao, non so come dire, no? Sì, sì, sì. E, È difficile da... Diciamo che è parte delle regole del gioco, dai. È parte delle regole del gioco. Sappiamo anche come, abbiamo parlato tante volte io e te Andrea, come in altri sport, magari con una sconfitta pilotata ti scegli un avversario nella prosecuzione del torneo, che sia basket, pallavolo, eccetera, eccetera. Quindi se ne parlò a lungo nei mondiali di pallavolo del 2010, quando il Brasile e Bulgaria giocarono a perdere. In realtà, con un regolamento... sì. Quanto meno discutibile, avevano un grossissimo vantaggio a giocare a perdere, e vi assicuro che non giocare bene perché si è già qualificato è diverso che giocare per perdere. Sì, sì. E infatti quel giorno Giba, che è il grandissimo campione che è, ha preso in mano la situazione e ha detto: quando serve le sbaglio io le palle, perché sono così bravo che posso sbagliarle di poco, così non si nota molto. Sì, perché non sapeva nessuno. Questo è stato, non c'è stato voi siete più appassionati di basket di me, qua ricordano spesso l'autocanestro di Ferrandiz negli anni 70 al Real Madrid, non ricordo un episodio qui diventato clamoroso in cui lui praticamente si segnò un canestro. Sì. Questo, vabbè, ma sai Filippo, insomma, però il calcio, ma il calcio però è pieno di professionisti della demagogia, no? No, infatti, c'era anche da dire, inizialmente questa nasce come una partita incredibile, cioè è una finale di Champions, nel senso che chi vince fa fuori l'altro, teoricamente, cioè quando al minuto uno, poi perché più o meno era così, è il concatenarsi dei risultati che determina questa situazione, però quando a lungo era stata la vittoria del Rayo condannava il Granada. Sì. Sai cosa hanno fatto nel volley per evitare la possibilità di fare calcoli? Hanno fatto diventare il quoziente punti il secondo parametro dopo quello dei punti, non il quoziente set, perché quello lì, se tu a fine della partita hai 3 set di vantaggio, in realtà se anche perdi rimani. Invece quel quoziente punti, che significa la differenza tra i punti fatti e quelli subiti, è totalmente impossibile fare i calcoli, e quindi tu devi vincere la partita, perché dopo il parametro dei punti guadagnati con la vittoria passi al quoziente punti e non sai come ne esci. Ma sai come si dice? Fatta la legge, trovato l'inganno. Non c'è verso. Filippo, come finisce stasera? Finale di Champions. Conta che già, allora qua facciamo una premessa, che mi serve per guadagnare tempo. Che dice l'ipnotista della finale di stasera? Esatto, no, perché io avevo pronosticato la finale senza spagnole, che detto in Spagna ovviamente era un'eresia, visto che qui c'erano state prime pagine dei giornali con la finale era già scontata, già scritta. Certo. Io invece mi ero azzardato anche su Marca TV, quindi proprio per andargliela a dire a loro, è tutto registrato, ho detto no, per me non ci va nessuna delle due spagnole. In realtà l'avevo detto solo per dare un po' fastidio, ma ci azzeccate, va bene così. No, stasera mi piacerebbe dire Chelsea, ma penso che alla fine il Bayern... non si farà scappare l'occasione. Lo penso anch'io. So che Andrea voleva chiederti appunto se la settimana scorsa si scherzava sull'ipnotista, su Mourinho ipnotista. Che ci ha regalato qualche altro. Beh, insomma, quella lì è bellissima, eh. I 50 gol di Messi, cosa vuoi che contino? 50 gol di Messi sono stati molto più importanti, 42 se non ricordo male di Cristiano Ronaldo, Messi 50 gol inutili. Poi se fai i conti, non è, no? Ha ragione lui, no? Sì, anche se fai i conti, tolti i gol di Cristiano Ronaldo, il Real arriva primo e il Barça arriva sesto senza quelli di Messi. No, a me fa un po' ridere sta storia che gli sta tirando la volata per il pallone d'oro, che va anche bene, voglio dire, però alla fine sì, ha vinto il campionato spagnolo. Però adesso c'è una finale di Champions stasera che se vince, soprattutto se vince la squadra tedesca, lancia ovviamente uno del Bayern e quindi verso il pallone d'oro da abbinare all'europeo. Se Ronaldo farà un grande europeo e il Portogallo vince l'europeo non ci saranno dubbi, ma siccome probabilmente non sarà così e lo vincerà magari una tra la Spagna e la Germania, qualcun altro rischierà di farsi più avanti, insomma di andare... Però è encomiabile la volata di Mourinho, come lo sta tirando il suo connazionale, la vedo comunque complicata. Per Mourinho la finale di Champions League di stasera e l'europeo sono cose di nessun tipo di interesse ormai. È chiaro, giusto. Ma chiaro. Cosa vuoi che gli importi a lui della finale di Champions? Per lui è una partita che non esiste. Lui Esatto, ma anche alla gente, dai. Certo. È quella che ti chiedono, quella partita lì non è mai esistita. Se lo chiede a Mourinho, finale di Champions League 2012, no, non c'è stata. Anche l'europeo, insomma. Anche l'europeo, cosa vuoi che dica? Se vince il Portogallo, magari forse gli può far piacere. Un'alzata di sopracciglio, eh? E quindi vedremo, vedremo. Però, insomma, dire che 50 gol non... Non contano niente, ce ne vuole. Non è male. Non ce ne vuole abbastanza. Grazie Filippo! Va bene, grazie a voi, un abbraccio. Un abbraccio. Buona giornata. Grazie a Filippo Maria Ricci. Andrea, adesso c'è il traffico, poi torniamo e ti leggo. Insomma, parliamo di chi vuole andare alle Olimpiadi a tutti i costi e di chi vorrebbe andare alle Olimpiadi ma non può. Ti racconto io allora come sono colti alle Olimpiadi coloro che vogliono andarci, di quel genere lì. State con noi. Dunque, caro Andrea Zorzi, adesso è il momento di parlare di ciclismo. Oggi era in programma una delle tappe più attese, finalmente la montagna, finalmente un arrivo in salita, finalmente qualcosa sulle strade di un Giro d'Italia che fin qui, diciamo la verità, ha un po' deluso le attese. L'appuntamento istituzionale, quindi con il Giro, quindi quello con le siglette, tanto per intenderci, oggi Andrea sarà dedicato ad un ospite molto particolare, che rimarrà lì e sarà una sorpresa. Intanto c'è Pier Augusto Stagi che ci racconta questo arrivo a Cervinia. Sentiamo. Un corridore dello stato di Costa Rica vince sotto il Cervino. La 14ª tappa da Cherasco a Cervinia è terreno di conquista dell'unico corridore costaricano. Il suo nome è Andrei Amador, uno che della fuga ha fatto una ragione di vita. È al suo secondo Giro d'Italia. A fine del 2010 ha affrontato avversari fin troppo agguerriti, dei banditi che hanno cercato di rapirlo, e nella sua fuga ha lasciato appunto ai banditi la sua preziosa bicicletta Made in Italy, che poi è diventata per i banditi appunto motivo di riscatto. Il corridore in realtà poi non ha voluto rispondere al riscatto e la bicicletta è ricomparsa. Oggi il riscatto totale però per questo ragazzo della Costa Rica, che ha vinto la tappa, una delle tappe più importanti di questo Giro d'Italia. Ha vinto allo sprint battendo Bart, terzo De Marche a 2 secondi, poi Eisedal a 20 secondi, Tiralongo a 46, che ha regalato il gruppetto dei migliori con Pozzovivo e Basso. Adesso in maglia rosa è ritornato il canadese della Garmin Rider Eisedal, che precede di 9 secondi il catalano Joaquin Rodriguez, terzo il nostro Paolo Tiralongo, staccato di 41 secondi, poi troviamo quarto Sandy Casare, Ivan Basso risale in quinta posizione a 1.06, Kreuziger è sesto a 1.07, Scarponi nono a 1.19, Domenico Pozzovivo decimo a 1.21. La linea te, Carlo. Dunque oggi è andata così, ringrazio Pier Augusto Stagi, ma adesso, come promesso, sempre parlando di Giro d'Italia, conosciamo un amico che domani ci rappresenterà fisicamente al Giro. Veicoli commerciali Citroën, dedicati a chi pedala tutto il giorno. Vi presenta Voci dal Giro. Allora, colui che ha vinto il premio più ambito di Radio 24, ha vinto il nostro concorso scrivendo il racconto più bello sul Giro d'Italia e domani appunto salirà sulla ammiraglia per vivere da lì, da quella postazione privilegiata, la 15ª tappa, che pure è una tappa di montagna, si conclude a Pian dei Resinelli, dunque mica paglia. Franco Dalbello, buongiorno. Buongiorno, ciao a tutti. Ciao. Aspetta, che responsabilità. Un po' sì, ma hai sotto mano il racconto? Sì, sì, ce l'ho. Me lo leggi tu? Sì, un po' emozionato. Ma che emozione? Vai. Un po' di emozione. Vai. Allora, era il 67, avevo 12 anni. Seduto sui gradoni dell'arena, sotto il sole di giugno, aspettavo che arrivassero, uno ad uno. Era solo la passerella, il tempo veniva preso prima di entrare in arena, ma che spettacolo. Gimondi, Adorni, Dancelli, contro quel francese, anche Till, che se ci fosse adesso ameremo per quello che era, come abbiamo amato e amiamo per altri motivi il pirata. Anche se quella volta a vincere fu un danese, Ritter, Ole Ritter, lo conoscevo, era nelle biglie. Sono passati anni e quella volta, sotto i portoni della Bra, aspettavo che si concludesse il giro che Toriani, presentando l'ultima tappa, aveva così battezzato. e il giro sarà soave a Verona. Anche allora c'era un francese, un professorino con gli occhialetti tondi, il codino, Fignon. Ma che stavolta il vento sarebbe cambiato, iniziò a raccontarcelo l'urlo della folla che aumentava e si avvicinava lungo la strada, prima come un fruscio per poi crescere fino a diventare boato. Era il 1984 e il vento si chiamava Francesco Moser. Beh, complimenti, bello. Bravo, bravo anche per la lettura. Sì, sì. E poi devo dirti che il nostro Dario Ceccarelli, che di Giro d'Italia ne ha vissuti moltissimi da inviato, compreso questo, l'ha letto e ha detto, caspita, quel giorno è stato proprio così, come l'ha descritto Franco. Attento domani sulla Miraglia, perché Andrea Zorzi è preoccupato, perché non è esattamente una gita turistica. Lo so. Non ci sono mai stato. Ho qualche preoccupazione anch'io, però è un'esperienza che penso sarà unica. Lo credo anch'io. Vale la pena farla. Senti, Andrea? Diciamo che non ho idea, ma secondo me Franco è un mio coetaneo. Quanti anni hai? Io sono del 55 e quindi ho la bellezza di 57 anni. Allora la fase dei Gimondi, Adorni, D'Ancelli l'hai vissuta un po' più perché sono quei nomi che anch'io ho imparato a ricordare con le biglie. Con le biglie, quelle di plastica, quelle belle. Bellissime. Quelle in spiaggia, faceva la pista con la parte meno nobile del corpo. Esatto, trainato dall'amico, ti ricordi? Avrei voluto dirlo. Franco, grazie a te di aver partecipato in bocca al lupo. Grazie a voi. Franco Dalbello. Io devo ringraziare anche Andrea Zozzi, sarei andato avanti ovviamente come sempre un'altra oretta, non c'è spazio, niente, andiamo a... E di questa trasmissione mi porto via che quando devo dire parolacce posso dire quella parte meno nobile del nostro corpo. Del corpo, ma naturalmente, con grande eleganza. Grazie a Giorgio De Luca in redazione, a Fabio Cantadori in regia, ci sentiamo domani dalle 5 alle 6.